Siamo rientrati in diretta, sempre 451 frammenti sonori dopo il radiogiornale. Ovviamente ricordiamo per coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso sulle frequenze di Radio Città del Capo, stasera 451 frammenti sonori ha dedicato, diciamo, ha costruito una trasmissione intitolata da Pietro Grossi ed Albert Mayer Il filo rosso dell'utopia, così l'abbiamo definita. Abbiamo avuto in collegamento, con qualche piccolo problemino tecnico di cui ci scusiamo principalmente con Albert e anche ovviamente con gli ascoltatori, e abbiamo appunto avuto in collegamento telefonico lo stesso compositore italiano Albert Mayer e abbiamo inserito ovviamente negli spazi possibili alcuni brani appunto tratti da alcune opere nel corso degli anni che ha sviluppato lo stesso compositore. Adesso abbiamo ascoltato un frammento, diciamo, nel rientro nella seconda parte della trasmissione, da uno splendido lavoro intitolato Suono, Segno, Gesto, Visione a Firenze 2, dove ci sono varie composizioni da Pietro Grossi a Giuseppe Chiari, Giancarlo Cardini e lo stesso ovviamente Albert Mayer, Daniele Lombardi, Marcello Ritiani e Sergio Martagliate. Abbiamo ascoltato proprio una composizione di Albert Mayer, esattamente, adesso il mio tedesco mi tirerà magari ve lo facciamo dire lui, mi tirerà un po' le orecchie, ma ha studiato tedesco, oltre che essere stato in DP, vabbè. Ecco, dopo che sono anch'io un po', sai, friulano, vicino alla zona, vado? So konnte es geschehen, so oder heimlich. Come andate, Albert? Così, dai, insomma, una sufficienza striminzita, dai. Sì, comunque, fornisca la traduzione, se volete. Certo. Dire, può accadere in questo modo o anche in un modo simile, diciamo, traduce un po' male. Era un racconto della mia ex moglie, così, che ha scritto questi tempi, in questi periodi in Canada, e perciò mi è sembrato un titolo adatto anche a quel pezzo. Fatto lì a Toronto e alla McGill. Benissimo. Senti Albert, prima ci siamo lasciati con una questione piuttosto annosa che ha riguardato sia le avanguardie storiche, con probabilmente una rivoluzione mancata, quelle che poi porteranno purtroppo per reazione al periodo d'ordine, no? E quindi la mortificazione degli assalti al cielo della prima avanguardia, e poi anche i discorsi appunto che avete portato avanti voi come neoavanguardie, e uno dei perni centrali è quello tra avanguardie politiche e avanguardie artistiche. Nel dopoguerra, prima si stava appunto parlando della nuova sinistra, del tentativi anche appunto tuoi, degli esperimenti presso DP, Democrazia Proletaria. Ci chiedevamo, insomma, una cosa che ci chiediamo spesso, Eliseo, qua a 451 frammenti sonori, che, insomma, tentiamo di occuparci di sperimentazioni d'avanguardia anche, quale fosse il rapporto con l'avanguardia politica o con quelle che una volta magari erano avanguardia politica, ovvero con i partiti comunisti o sedicenti tali, insomma. Diciamo sì, come pensai, diciamo, è stato un rapporto non facile. C'erano i pochi anni gloriosi di Lunacharsky nell'Unione Sovietica, no? Cioè, chi era allora ministro della cultura ed era aperto anche alle cose più avanzate. Alle futuriste, no? Sì, Majakovsky, sì. E compagnia. Vabbè, poi appunto è subentrato Zhdanov e le cose sono andate a finire come sappiamo, cioè uno sentimento così estremamente rigido sul cosiddetto realismo socialista e l'abbandono, anzi la repressione, tutte le forme più sperimentali. Il che naturalmente poi non era vero per tutto, sappiamo che la Polonia era un paese abbastanza aperto all'avanguardia, così. Per l'Italia, diciamo che la crisi culturale del PC era molto ambigua, no? Da un lato veramente si sentivano legati a quello che si faceva il Grande Fratello in Unione Sovietica, cioè l'arte per il popolo non poteva che essere appunto di stampo molto regionale, eccetera. D'altro canto, negli anni 70, penso anche sotto la spinta della nuova sinistra e dei gruppi extraparlamentari, che in maniera a volte poco caotica, ma del tutto vivace, erano molto più vicini anche a quelli che erano sperimentazioni artistiche, tentativi nuovi, eccetera. E io, per esempio, negli anni 70 ho girato quasi tutte le case del popolo di Firenze e dintorni con i miei studenti, proponendo così concerti di musica sperimentale, che dove c'era anche un pubblico sì, anche interessato, che poi discuteva, chiedeva, eccetera. Oggi chiaramente se tu vai lì a una casa del popolo a proporre un concerto di musica sperimentale, ti cacciano in pedazzi o ti fanno rinchiudere nei manicomi, ecco, insomma, perciò appunto c'era questa chiusura. E un po' è successo anche che con un riflusso, chiamiamolo così, che c'è stato anche non solo a livello politico, ma anche nell'arte, un ritorno all'ordine, un ritorno a procedimenti non solo creativi, ma proprio anche di fruizione e diffusione del lavoro, che ora appunto siamo in una situazione in cui la sinistra è nello stato in cui è e in qualche modo cerca di sopravvivere, chissà se ci riesce, e però appunto questi problemi qua non può sicuramente cercare di occuparsi di questioni più sovrastrutturali. Invece appunto, come ho fatto accennare prima, ci sono alcune tendenze anche artisti che hanno a cuore delle problematiche anche sociali, delle problematiche di un po' di riflessione sul rapporto con l'ambiente e così via. Attualmente non mi pare che ci sia un grosso terreno da arare, ecco, sia a livello anche di volontà da parte della sinistra di rimettere in questione anche gli assunti fondamentali del lavoro culturale, né di adoperarsi così in maniera anche pratica a favorire un dialogo con le sperimentazioni artistiche. E questo sì, è un peccato, è anche che la memoria di queste cose si stia perdendo, no? Se posso tornare un po' al discorso di Voltaire, no, che faceva, di cui si è parlato nella prima tranche del programma intervista, no? Appunto, a parte il fatto che gli ospedali psichiatrici nella forma di allora non ci sono più, ci sono in altre forme, ma ora discorso per lungo. Però il fatto stesso che un'istituzione comunque così ufficiale, eccetera, accogliesse così un lavoro sperimentale del tutto così privo di crismi ufficiali riconosciuti, oggi non è più pensabile, no? Come non è forse neanche pensabile che se io continuassi a insegnare dicessi ai studenti: su, andiamo a fare delle cose, lì non ci pagano e c'è stato pomeriggio intera settimana, no? Cioè, questi direbbero come, no? Ma la nostra corriera cosa fa? Niente. Io non so, appunto, forse è importante anche parlarne almeno, no? Come facciamo noi adesso, almeno dire che la possibilità potrebbe esserci di farlo. Riprire. Potrebbe sì. Fare uno sforzo di riaprire una dialettica. Un discorso, sì, con dovute cautele. Ah, certo. Senti, Albert, io avevo una domanda che volevo farti rispetto alla dimensione delle musiche sperimentali tout court, a cui ovviamente anche tu appartieni, che noi trattiamo da diversi anni come trasmissione. Uno dei punti che ci ha sempre abbastanza, diciamo, attraversato è stata l'esperienza di una grande etichetta come quella della Cramps Records negli anni 70, soprattutto nelle collane legate a diverso, a nuova musica, quelle più strettamente sperimentali. Una cosa che anche a noi abbiamo sempre molto sentita era questo tentativo comunque di un progetto appunto di produzioni sperimentali, di cercare di trovare anche quel collegamento tra virgolette popolare, no? Cioè cercare di riportare il discorso della sperimentazione in un'ottica non elitaria o comunque chiusa, connessa ai soggetti che trattano questo tipo di materiale, ma cercare appunto di ampliare lo spettro e far arrivare anche a cosiddetto, non usiamo il termine grandi ascoltatori, grandi numeri, ma comunque a una soggettività un po' più ampia. Questo discorso ti ha attraversato, immagino, ma pensi che sia ancora attuale questo tipo di approccio in un'ottica ovviamente collegata a questi tempi e a tutta una serie di difficoltà? Ma io penso che se ci fosse la volontà, chiaramente si potrebbe fare, nel senso che io mi ricordo anche, appunto, ho parlato prima delle case del popolo, che in quell'epoca erano abbastanza aperte, e si potrebbero, appunto, ricreare anche dei piccoli spazi, dei piccoli centri aperti, fluidi, così, in cui si possono presentare delle cose diverse, ecco. Però chiaramente con un minimo di supporto logistico, finanziario. Il fatto è che diciamo, già negli anni 70, o alla fine degli anni 70, il PC, che aveva pure così sostenuto iniziative un po' eterodosse, no? Poi si è votato alla cultura ufficiale e ha pensato che il suo terreno di lotta, chiamarlo così, fosse quello, no? E ha lasciato perdere tutta una serie di iniziative, di animazione, di intervento aperte alla sperimentazione. No, perché il popolo, per così dire, no? Usare un'altra parolaccia, se trova che certe cose vengono anche presentate, veicolate in canali con i quali un po' si può identificare, non è che rifiuta a priori, no? Insomma, l'esperienza mia è proprio questa. Il problema sono, direi, un po' come spesso i quasi intermedi, no? Io ho avuto un'esperienza di sindacato a Firenze con cui ho fatto dei seminari sul tempo, così, che erano così voluti, scusate, dalla segreteria di allora, ed erano seguiti con un certo entusiasmo dalla base, aggregati. Chi era un po' scettico, chi si sentiva un po' suo, non era rassicurato di queste cose, erano i quadri intermedi, cioè così, i funzionarietti Di del burocrati. sindacato. Il che è anche un po' il discorso di quello che riguarda gli enti locali, le amministrazioni locali, no? Cioè così, magari c'è un piccolo gruppo, una sezione così che potrebbe anche fare delle cose, ma non ha le forze, e magari a livelli alti sono anche aperte delle cose, però poi cosa fanno? Fanno l'auditorium di Roma, no? Così dove c'è l'avanguardia ufficiale, Certo. con qualche concessione a cose sperimentali, però diciamo è tutto dentro una cornice estremamente istituzionalizzata, estremamente affermativa, estremamente così pomposa, no? Certo. Mentre sì, la possibilità sarebbe o dovrebbe essere quella di cominciare poter fare delle cose anche a livello di quartiere, a livello di iniziative così, anche in piccoli comuni. Soltanto che appunto chi c'è adesso, c'è stato anche un ricambio generazionale non proprio incoraggiante, no? Che spesso le persone che sono nelle commissioni di cultura a vari livelli sono di un disinteresse, anche di una poca conoscenza e di una poca curiosità da far paura, questo è un po' il problema. Certo, secondo me. Si potrebbe ritornare, insomma, a auto-organizzarci, ma anche questa è una parolaccia, insomma, no? Ma sì, potrebbe, sì. Ci sono, vedo ora anche Firenze, così qualche piccolo spazio comincia a prendere attività, poi chiaramente spesso questi nascono e dopo qualche mese spariscono, ecco. Ci sarebbe da, sì, da vedere anche chi, oltre così, nella sinistra, oltre alla, ai problemi appunto impellenti di sopravvivenza e di delle due sessioni al mese, magari sarebbe coinvolgibile in altri progetti. Non, al momento non sono molto ottimista, ecco, devo dirlo, però vabbè, sono anche non più giovanissimo, perciò forse no, ma anche noi giovani anche siamo abbastanza ottimismo della giovane età. Beh, ma anche noi siamo un po' pessimisti, anche se non siamo proprio giovanissimi anche noi, però insomma. No, probabilmente insomma la ricostruzione, bisogna insomma riparlare di magari di ricostruzione di un senso che si è smarrito nel corso degli anni, appunto di magari ritornare a un filo rosso, no? In questo senso, con anche appunto i lavori che avete fatto voi, che comunque appunto continuate anche per tanti aspetti. E Albert, a questo punto noi ti lasceremo anche, visto che insomma ti abbiamo fatto fare le ore piccole. Piccole sì, ripeto, per la causa, questo dato. Per la causa. A cosa stai lavorando adesso? Ti facciamo quest'ultima domanda. Ma al momento sto cercando di organizzare una relazione da fare in Finlandia al convegno del Forum Mondiale dell'Ecologia Acustica. E questo, e poi appunto porto avanti sempre la cosa di noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo, sto lottando con la radiografia e con altre cose per farlo anche fuori, ecco, e poi sto cercando, insomma, sempre dietro alla sezione italiana appunto il forum per il paesaggio sonoro, e poi ci scrivo, devo scrivere alcune cose su una relazione fatta, devo rimettere per scritto una relazione fatta a Parigi sempre sul tema del paesaggio e ecco, queste sono le cose attuali, insomma sei carico di impegni, insomma. Ma sì, ma sono ufficialmente in pensione anche adottando i criteri di Scalini, di Brunetta eccetera, poter fare le cose con un certo comodo, ecco. Va bene, grazie Albert. Grazie Albert. A voi, splendido. E auguri per il lavoro. Grazie, grazie altrettanto. Ciao, Albert. Ciao, grazie ancora. Bene, siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori, dopo l'intervista ad Albert Mayer abbiamo voluto ripartire ovviamente con spazi sonori musicali, dato che comunque gran parte dello spazio temporale l'abbiamo ovviamente dedicata all'intervista, dunque ovviamente al parlato, anche se poi è un parlato connesso comunque al discorso sonoro, al discorso delle sperimentazioni sonore, con un importante pezzo della sperimentazione del Novecento e ovviamente anche del nuovo millennio, e siamo ripartiti ovviamente con il grande Pietro Grossi da un doppio album costruito di Schachtel con la collaborazione dell'associazione Pietro Grossi, ovviamente uscito proprio nel 2010, dunque pochissimo tempo adesso praticamente, un doppio CD dove appunto sono state riportate delle opere di Pietro Grossi e anche di altri autori che ovviamente hanno avuto comunque a che fare, collegati rispetto alle sperimentazioni sonore dello stesso Pietro Grossi, che ricordiamo ancora uno degli elementi più importanti che lui stesso ha creato è stato proprio lo studio di fonologia musicale di Firenze, l'S2FM, che è stato uno in assoluto dei primi al mondo appunto a studiare, a portare avanti un discorso di sperimentazione connessa alla musica elettronica e alla musica elettroacustica da parte dello stesso Pietro Grossi, che poi ha continuato ovviamente nel corso degli anni a sperimentare, arrivando poi anche a sperimentazioni dell'immagine con la computer grafica, dunque ampliando il suo spettro di intervento, e soprattutto da ricordarsi le frasi che lui stesso già in maniera anticipatoria affermò rispetto alla possibilità appunto che già iniziava a profilarsi dagli anni 80, inizio anni 90, dell'ipotesi della rete come uno strumento comunque potenzialmente che permetteva di riacquistare una vera e propria soggettività nella sperimentazione e nell'espressione artistica da parte di ogni soggettività appunto che intendeva potersi esprimere attraverso uno strumento come quello della rete, che poi abbiamo visto che per molti aspetti è riuscito effettivamente a creare, sì, dei grandi sperimentatori dal nulla che prima non sarebbero mai probabilmente venuti alla luce, che loro stessi non avrebbero mai potuto comprendere le loro potenzialità, le loro possibilità espressive. Poi ovviamente c'è una fetta che è connessa a uno strumento che fa parte comunque di un sistema sociale ed economico che chiaramente, se pilotato e manipolato, può produrre ulteriore merce, dunque non produrre quello che lo stesso Grossi voleva, ma questa è una questione ovviamente complessa che abbiamo affrontato, sì, diverse volte e che continueremo a affrontare come appunto discorso legato all'avanguardia. Appunto, ecco, abbiamo ascoltato da questo cofanetto, dal primo CD, proprio un estratto di PG4, un'opera dello stesso Pietro Grossi, che in realtà era connessa a una vera e propria installazione sonora. Ovviamente si tratta di un periodo molto lontano, 1965, dove ancora le installazioni erano, diciamo, delle vere e proprie avanguardie, installazione sonora che fu appunto costituita dentro una mostra, la Casa Abitata al Palazzo Strozzi di Firenze. Dunque fasce sonore e sperimentazioni sonore dove lo stesso visitatore praticamente poteva accedere e decideva appunto in questa installazione che cosa ascoltare, che cosa fare interagire, comunque insomma dentro un discorso tipico dell'installazione sonora. Successivamente abbiamo collegato, sempre dal primo CD di questa opera combinatoria, ricordiamo ancora uscito appunto in questi giorni, un'opera di un altro progetto importante dell'epoca, sempre connessa agli anni 60, cioè il progetto NPS, Interferenze 2 era questo lavoro, NPS, Nuove Proposte Sonore, che è stato fondato praticamente un altro centro di studio di musica elettronica a Padova da Teresa Rampazzi, e appunto anche questi erano tra i vari centri che poi nello stesso lavoro, in questo cofanetto, sono presenti, oltre appunto allo stesso centro di fonologia musicale di Firenze, era presente ad esempio lo SMET in un altro lavoro che è inserito nello stesso cofanetto, lo studio di musica elettronica di Torino, dove il fondatore era Enore Zaffiri, che abbiamo anche in passato inserito nelle scalette di 451. Sì, in effetti è una Zaffiri, altro momento. È venuta una voce assurda. Beh, però, va bene, sperimentare un po' alla Stratus. Prima citavamo la Cramps anche con Albert Mai. Infatti. E beh, incredibile sia il pezzo di Grossi che il pezzo ascoltato appunto da NPS. Sembrava quasi un Merz Body 40 infatti, anni fa. La stessa cosa che ci è venuta in mente. È un lavoro sulle frequenze veramente incredibile, di grande sperimentazione sonora. Lavorare così sul rumore bianco con le strumentazioni dell'epoca ha qualcosa di avventuroso, se non addirittura di eroico. Così in effetti, anche sentendo le parole di Mai, per certi versi è stato, seppur punto, poi appunto ribadiamo, c'è una contestazione anche delle dei miti e delle mitologie, quindi da Amstad. Forse non è ancora possibile parlare di mito per lo studio fonologico di Firenze, però sicuramente è da non svilire il discorso, o non diciamo trasportarlo nel mondo delle idee dell'iperuranio. In sostanza sono sperimentatori che hanno sperimentato sul campo e che quindi aprono ancora un discorso a chi ancora voglia e vuole mettersi in discussione appunto sperimentando. Di fatto c'era un atteggiamento politico che, ribadiamo, e non a caso ha fatto uscire anche Mai e prima, e andando a prendere proprio un esempio anche di questo atteggiamento politico. Prima Mayer diceva di Grossi, molto rigoroso in studio, però poi grande libertà e opera aperta, nel senso di diffusione, di possibilità di rielaborazione dei propri lavori, dei propri studi, delle proprie sperimentazioni. In effetti Albert Mayer, da proposte sonore, e noi andiamo a sentire proposta sonora numero 5, parte proprio da Battimenti, che è un lavoro di Pietro Grossi rielaborato. E il tentativo di Mayer in questo caso è quello di creare un flusso, c'entra chiaramente con il suo discorso principale, che è quello legato al tempo. Il flusso è una serie di concatenazioni di suono legate insieme in forma spiralica, e appunto è il tentativo di dare continuità a un'idea, a una sperimentazione sonora, quasi a toccare un'opera aperta che diventa opera infinita. Proposta sonora numero 5 da parte di Albert Mayer. E siamo ritornati in diretta, sempre 451 frammenti sonori, e abbiamo ovviamente collegato uno splendido lavoro di Albert Mayer da Proposte Sonore, un'altra traccia assolutamente imperdibile, potremmo usare questo termine, un ottimo lavoro a livello appunto sonoro, dove appunto la maestria sul piano della sperimentazione elettroacustica si esprime al meglio, una composizione sempre degli anni 60, le sperimentazioni che Mayer incominciò soprattutto all'interno della collaborazione con Pietro Grossi dello studio di fonologia musicale di Firenze tra il 63 e il 69, dove appunto le sperimentazioni elettroacustiche di Mayer riuscivano a elaborarsi e collegarsi ovviamente alle sperimentazioni di Grossi, ma anche di altri autori che appunto circolavano all'interno di questo studio, che ha prodotto poi vere e proprie avanguardie sonore e sperimentazioni che saranno anche feconde e fondative per tutta una serie di sperimentazioni che verranno successivamente, dunque un punto di partenza fondamentale. Successivamente abbiamo tratto un brano sempre da questo pezzi. Lavoro, sì, appunto due brani in realtà, di in questo caso in particolare Giuseppe Chiari da Suono, Segno, Gesto, Visione a Firenze 2, appunto, dove il pianoforte, in questo caso esecuzione di Daniele Lombardi, espone tutta una serie di sperimentazioni sul suono, ma soprattutto sul piano compositivo, dove appunto il pianoforte, anche con chiari riferimenti minimali, minimalisti, intesi ovviamente anche su ripetizioni di strutture armoniche e melodiche, riproduce un meccanismo che può anche richiamare certe sperimentazioni computeristiche, elettroniche, che venivano effettuate in quegli anni, appunto partiture, strumenti che poi venivano riprodotti attraverso delle schede magnetiche all'epoca, negli anni 60, dove appunto il computer riproduceva dei meccanismi e dei segnali, delle istruzioni date principalmente e precedentemente dai compositori, creando poi delle strutture sonore estremamente interessanti, appunto quasi a voler rendere automa e automatizzato lo stesso elemento computerizzato e tecnologico. Sì, in effetti musiche automatiche è uno degli altri grandi temi di Pietro Grossi, tra l'altro suo gioiello anche discografico, potete ritrovare. E tra l'altro lanciamo anche così un piccolo appello in termini di ascolto, cioè recuperate questi lavori, perché sono veramente dei gioielli veramente di grandissimo valore musicale, sonoro. L'Hans Record ad esempio sta curando le ristampe per quanto riguarda Albert Mayer, alcuni dei suoi lavori, perché c'è il problema poi di recuperare tanti lavori fatti da questi grandissimi autori, però appunto l'Hans Record già sta facendo ANTS, così siamo più chiari, sta facendo questo lavoro per quanto riguarda Mayer, Die Sachtel per quanto riguarda Combinatori, e quindi il disco che prima ha presentato Eliseo, sia con Grossi e i suoi allievi appunto fiorentini, e poi appunto questo Suono, Segno, Gesto, Visione a Firenze, un po' più magari difficile, legato recupero un po' più arduo legato alla fondazione Atopos, però insomma girando un po' su internet riuscite a recuperare sicuramente. E appunto questo Suono, Segno, Gesto, Visione a Firenze tratta un po' come dagli anni 50 fino ai nostri giorni, si arriva appunto a Maltagliati, che è stato l'ultimo collaboratore di Grossi, tra l'altro legato alla NetArt. Prima così lanciavamo questo discorso legato appunto al grande Pietro Grossi, quello dell'ultimo periodo, e troverete anche degli esempi di NetArt sul blog di 451 frammenti sonori legati a Maltagliati e a Grossi, proprio gli ultimi esperimenti del grande compositore fiorentino. E tra l'altro, andando sui siti dedicati a Circus 8, che è poi appunto l'ultima opera di fatto di Grossi, potete anche interagire, quindi avere anche un ruolo compositivo, e questa è la grande poi utopia di Grossi e dei suoi allievi, quello appunto di interagire, di creare una musica che poi potesse essere di tutti, potesse essere manipolata, tutti i musicisti, per rompere insomma categorie non soltanto artistiche ma anche sociali, di professione, di ruolo, una diffusione appunto che rendeva politica anche l'operazione musicale, oltre che squisitamente sonora, nonché splendidamente musicale. E andando a trovare un'altra di quelle sperimentazioni di Pietro Grossi, sostanza puntata dedicata appunto a Mayr, ma con appunto questo continuum rispetto a Grossi, da Pietro Grossi e Albert Mayr, il filo rosso dell'utopia. Andiamo a prendere appunto Sound Life 4, sempre da questo suono, segno, gesto, visione a Firenze, appunto il grande Pietro Grossi. Thank you. Siamo rientrati in diretta dopo aver ascoltato ancora il grande Pietro Grossi, da, sempre da questo ottimo lavoro uscito per la Topos, Suono, Segno, Gesto, Visione a Firenze 2. Bisognerebbe capire perché 2. Questo rimane. Formalmente è un riferimento alla 2F dello studio fonologico. L'ho scoperto, incredibile. In realtà parla. L'hai fatto apposta. No, non l'ho fatto, l'ho scoperto adesso. Guarda, cioè, ho dato un'occhiata velocissima, ho trovato questa annotazione interessante, che in realtà è 2 perché parla della cultura musicale, 50 anni di musica dalla seconda guerra mondiale a Firenze. Ecco perché c'è il 2. Dunque, c'era un collegamento. Bene, abbiamo ascoltato un'opera veramente splendida, sempre di Pietro Grossi, appunto, Sound Life 4, elaborazione che è durata ben 6 anni, dal 1979 al 1985. Sono le opere in un momento di passaggio abbastanza importante per questo paese, per tanti aspetti. Abbiamo affrontato diverse volte questo periodo storico così delicato, e anche con Albert ne abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita. Un grande Pietro Grossi che abbiamo voluto comunque ovviamente omaggiare, collegare al discorso di Albert Mayer, dato che era connesso e collegato per tutta l'esperienza musicale, insieme agli altri progetti che abbiamo inserito all'interno appunto di queste sperimentazioni, di questi studi appunto connessi alla sperimentazione sonora. Da Pietro Grossi arriviamo ormai praticamente in chiusura di questa trasmissione con Albert un altro Mayer. Omaggio al grande Albert. Sì, infatti andiamo su una delle sue ultime opere pubblicate, Abendgrün. Un discorso un po' diverso rispetto alle cose ascoltate finora, soprattutto legate ad Albert Mayer, perché è una composizione composta per gli ottoni, quindi si va su un discorso decisamente acustico, seppur non si perde quel linguaggio sperimentale assolutamente, anzi il suono di flusso, il cercare attraverso il continuum di dare spazialità e tempo al suono, recuperare, liberare in questo senso anche tempo attraverso un flusso che vada oltre il tempo consolidato, quello che insomma è orologisticamente parlando tempo, no? Quindi un percorso particolarissimo quello che fa con Abendgrün Mayer, proprio memore delle sperimentazioni sia di battimenti di Grossi, sia appunto le sue rielaborazioni, proprio partendo dai lavori e dalle sperimentazioni di Pietro Grossi e quelle appunto di proposte sonore che abbiamo ascoltato questa sera in varie parti, appunto. Poi chiaramente le opere sono ben più lunghe, molti problemi sono, come dicevamo prima, legati alle pubblicazioni, aspettiamo in questo senso, però già ci sono un po' di cosettine da ricercare, da trovare, come è giusto che sia, e soprattutto piacevole, perché poi l'ascolto veramente dà anche l'ampio raggio a quello che è una sperimentazione non soltanto appunto teorica, ma vissuta e poi soprattutto compiuta. E appunto noi vi lasciamo con questo omaggio ad Albert Mayer, chiaramente di riflesso a Pietro Grossi, ma a buona parte poi delle nuove avanguardie. Con Albert, infatti, si poteva parlare di Luciano Berio, di un certo Morricone poco conosciuto, che è quello delle composizioni contemporanee, di Maderna. Abbiamo toccato i punti nodali rispetto a Schaffer e a Stockhausen, quindi insomma una dedica che poi, oltre che alla computer music, oltre all'elettroacustica, è una dedica a tutte le avanguardie, al grande, come dire, lascito che ci danno tuttora, insomma. E speriamo prima o poi anche che escano delle neo-avanguardie su quella scia, su quella scuola comunque antiscuola che ha rappresentato un pezzo importante del Novecento italiano e non solo, perché insomma i nomi che tu hai citato hanno segnato la storia delle sperimentazioni mondiali su piani estremamente avanguardistici, perché quando parliamo di questo, tiriamo fuori questi nomi, parliamo di nomi che sono stati punto di riferimento da ogni parte del globo della sperimentazione elettronica e non solo, e contemporanea. Dunque speriamo appunto di vedere, insomma, di ascoltare qualcosa che nasca non si sa quando. Speriamo di essere... Sì, forse in piccolo già qualche, cioè, da anni comunque c'è, come dire, un sottotraccia che poi sì, c'è un sottotraccia. È quello che tentiamo di far ascoltare. Infatti, qua 450, anche se è troppo sottotraccia. Ecco, appunto, il problema è proprio quello. Speriamo sotto. Che rinasca e non sia più appunto una sottotraccia, ma sia una traccia anche abbastanza marcata. Potente. Bene, a questo punto salutiamo i nostri ascoltatori, speriamo che la trasmissione sia stata comunque interessante, rispetto anche soprattutto l'intervista a Albert Meyer, che comunque l'abbiamo impostata molto in una dimensione di conversazione estremamente informale, come d'altronde noi siamo comunque tendenzialmente abituati anche nella conduzione, e chiaramente vi aspettiamo per domenica prossima, sempre alle 23:30 circa, e chiaramente una buonanotte da Max Macchia e chiaramente da Eliseo Scarpa. Ciao, alla prossima. Noi non abbiamo il tempo, noi siamo nel tempo. Albert Mayer.